Era d'agosto e un povero uccelletto, ferito dalla fionna d'un maschietto, s'agneta a riposà con ala offesa sulla finestra aperta d'una chiesa. Dalle tendine del confessionale un prete intese e vide l'animale, ma dato che lì fuori c'erano non so quanti peccatori, richiuse le tendine espressamente e si rimise a confessare alla gente. Ma nel mentre che la massa de persone diceva sussurrando l'orazione, senza guardare per niente l'uccelletto, una donna lo prese e se lo mise in petto. Allora nella chiesa si sentì un lungo cinguettio. Cicì, cicì, cicì. E il prete, risentendo l'animale, lasciò de corsa il confessionale, ma poi nero nero, peggio della pece, s'arrampicò sul pulpito e poi fece: fratelli, chi ha l'uccello, per favore, vada fora dal tempio del Signore. I maschi tutti quanti in una volta partirono pannà verso la porta, ma il prete a quello sbaglio madornale: fermi, strillò, che mi so espresso male. Tornate indietro e statemi a sentì. Qua chi ha preso l'uccello deve uscì. A testa bassa e la corona in mano, 100 donne s'alzarono pian piano, ma mentre se n'annavano de fora il prete ristrillò: ho sbagliato ancora! Rientrate tutte quante, fie amate, che io non volevo di quel che pensate. Io v'ho già detto e ve torno a di che chi ha preso l'uccello deve uscì, ma io lo dico a voce chiara e stesa soltanto a chi l'uccello lo abbia preso in chiesa. A tali detti, in quello stesso istante, le monache s'alzaron tutte quante e poi col viso pieno de rossore lasciarono tutte la casa del Signore. E il prete, con la faccia imbambolata, capì che aveva detto una cazzata e sentenziò: senza rumori, piano piano, esca solo chi adesso c'ha l'uccello in mano. Una ragazzetta che col fidanzato stava con lui a sede sul sagrato disse impaurita col visetto smorto: che te dicevo, stronzo, se n'è accorto. Ma quello che nessuno ha mai capito è perché pure il chierichetto si è alzato e se n'è ito.